Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ritengo che difficilmente si troverà un accordo tra le forze politiche per la riduzione dei parlamentari, una delle tante che godono di privilegi particolari. In ogni caso, qualsiasi riduzione del numero che garantisca una rappresentatività non superiore al 50% dell'attuale organico dei deputati sarebbe insufficiente. Occorre poi ben valutare che quello che si riduce in una Camera non venga poi trasferito all'ipotetico Senato delle regioni o, peggio ancora, nei singoli consigli regionali. Negli anni 60-70 circolavano slogan che parlavano di appiattimento retributivo, di voto di gruppo garantito nelle università, con tutte le conseguenze nefaste che ne derivarono. Negli anni 80 è tornata in auge la meritocrazia, col riconoscimento della professionalità, delle capacità organizzative, delle responsabilità, eccetera. Purtroppo questi criteri non sono stati applicati nel modo corretto e hanno originato enormi differenziazioni retributive che sono ingiustificate. Oggi ci si richiama al federalismo, fiscale e non, come se non fossimo in grado di sapere quanto ha speso una determinata amministrazione, come ha speso, chi ha autorizzato tale investimento, chi ha la responsabilità del controllo, eccetera. Si dice che il federalismo renderà tutti più virtuosi e il popolo sarà più consapevole riguardo ai propri amministratori. Sarò pessimista, ma non ci credo. L'Italia è un paese in disgregazione e il federalismo che la Lega vuole imporre accentuerà questo dissolvimento. Considero la Lega un tumore che si è impiantato nel corpo malato della nazione. Primaria responsabilità è di quella classe dirigente di AN, che pur di disporre di qualche seggiola in più, ha accettato di spartire il potere con un movimento tendenzialmente secessionista, a vantaggio delle zone più ricche, forse nell'illusione di fagocitarlo, non rendendosi conto che saranno loro stessi ad essere cannibalizzati. Augusto, Firenze. Egregio direttore, sento spesso dire che la Lega Nord ha avuto buoni risultati a queste ultime elezioni perché è un partito concreto e sempre presente sul territorio, gli amici del popolo per eccellenza. Francamente credo che bisognerebbe rifletterci meglio. Siamo certi che dipenda da questo? A ben vedere, la Lega è un partito estremista che segue attentamente il trend dei partiti simili in tutta Europa. A causa dell'insicurezza generata dalla crisi e dall'immigrazione, ogni partito del genere, in quasi tutti gli stati, ha avuto negli ultimi tempi un incremento piuttosto consistente. Tempo fa abbiamo passato mesi interi a sentire i TG parlare quasi ogni giorno di rapine in villa, stupri, omicidi e problemi vari legati all'alta criminalità vera o presunta degli extracomunitari. Sappiamo tutti dov'è diretto, in un caso come questo, il consenso generato dalla potenza di fuoco dei media. La Lega, poi, passa per il partito del federalismo. Un esempio su tutti, impuntarsi per interessi propri a mantenere le province, che tutti sentono il bisogno di abolire, sarebbe federalismo? Il federalismo vero è quello degli Hamilton, dei Monnet, degli Spinelli. C'entra forse qualcosa con la Lega, che fra l'altro di federalismo ha cominciato a parlare solo dopo aver parlato per anni di secessione, che è il suo vero obiettivo, e di devolution? Infine, abbiamo idea di quanto rischia di costarci, oltre al mantenimento delle amate province, quello che la Lega chiama impropriamente federalismo? Si dice sempre che compito della Lega sia quello di rappresentare al meglio la miriade di piccole aziende italiane. Esempio davvero emblematico. Poco prima della scadenza dei dazi europei sull'importazione di tessile cinese, la Lega saltò fuori a urlare che nessuno stava facendo nulla per tutelare l'industria tessile italiana e che loro erano gli unici, soliti eroi che si interessavano alla faccenda. Il tutto quando già da un anno l'Unione Europea si coordinava con l'Euratex, l'Associazione degli Industriali Tessili Europei, per cercare una soluzione al problema che evitasse una guerra commerciale fra Unione Europea e Cina. Alla faccia della sincerità e del Partito degli Imprenditori. Sergio Pavia. Egregio direttore, le elezioni regionali 2010 sono ormai storia. Ma è una settimana che sto cercando di capire cosa abbia portato a questo successo delle forze al governo. Certo, ripensando a un anno fa sembra un mezzo successo, ma negli ultimissimi mesi qualche speranza in più c'era, sia perché ormai nessuno riesce più a negare che molti provvedimenti del governo Berlusconi siano frutto degli interessi diretti del premier stesso, sia perché la crisi economica morde da ormai 2 anni E la politica del turacciolo di sughero varata dal duo Berlusconi-Tremonti sta mostrando la corda. Molti accusano il PD di presentare un'offerta politica troppo debole. Ma mi domando, debole in relazione a cosa? La proposta di Berlusconi e del PDL si incentra su tre slogan: il governo del fare, le riforme e il partito dell'amore. Su ognuno di tali slogan bisognerebbe scrivere dei trattati per confutarli. Per sintesi, mi limito a dire che il governo, esclusa l'emergenza terremoto, ha fatto molto poco, soprattutto per fronteggiare la crisi economica. Le riforme le promette da 15 anni e ancora non è andato oltre le dichiarazioni di intenti. E la trovata del partito dell'amore è da figli dei fiori. Se se la fosse messa in bocca a Bersani, l'avrebbero accusato di essere un drogato. La proposta leghista ormai la conosciamo e fa perno su un esasperato localismo e su un forte richiamo alle tradizioni del territorio. Si tratta di un messaggio chiaro e semplice, che fa leva sugli istinti di una società impaurita e che non prova nemmeno a spiegare le cause di un'involuzione economica che si protrae ormai da un ventennio. Il PD ha condotto la campagna elettorale cercando di percorrere la strada di una critica puntuale e solidamente argomentata sui temi della moralità e delle politiche economiche. Tutto sommato, rispetto al resto dell'offerta sul mercato, la proposta del PD mi è sembrata più solida di quanto proposto dagli altri, eppure non ha fatto presa sull'elettorato. Analizzando il tutto, mi viene il sospetto che il problema non sia stata quindi un'offerta politica leggera, ma piuttosto un veicolo comunicativo che lo sia stato a sufficienza. Qual era lo slogan o gli slogan del PD? Non riesco a ricordarmeli, io che sono stato uno spettatore attento, figurarsi la massa degli indecisi. La sinistra da anni ripete che un'idea politica non è un detersivo, e hanno ragione. Purtroppo però oggi bisogna propagandarla come se lo fosse. Luca. Gentile Luca, non credo che la crisi della sinistra, in particolare del Partito Democratico, si possa risolvere inventando lo slogan giusto. Certo, in questa nostra società dell'immagine e dell'apparenza, anche la comunicazione ha la sua importanza. Ma per comunicare bene è innanzitutto indispensabile avere un'identità e mi lasci dire purtroppo, il Partito Democratico non ha ancora una linea politica chiara e inconfondibile. Purtroppo, guardando alla consistenza del dibattito politico in questi ultimi mesi, sui temi caldi come la giustizia o la politica fiscale, le alternative alle proposte o all'immobilismo della maggioranza sono apparse frammentarie e limitate. E nell'ultima campagna elettorale abbiamo avuto una politica che ha parlato soprattutto di se stessa. E così ha prevalso la protesta o lo sconforto, come dimostra la crescita dell'astensione o del voto per Bossi o di Pietro. E così, ora, più che uno slogan, il Partito Democratico ha bisogno di una politica, sciogliendo il dilemma che ha ben illustrato Stefano Folli sul Sole 24 Ore. Il centro-sinistra vuole un accordo di sistema con PDL e Lega, pensando nell'interesse del Paese? Oppure ritiene di salvaguardare meglio la propria identità rifiutando qualsiasi intesa in nome dell'emergenza democratica e dunque della permanente minaccia berlusconiana? E questa la domanda di fondo. Scelta una delle due strade, lo slogan verrà probabilmente da sé. Ho ascoltato la vostra trasmissione dedicata ai problemi delle lavoratrici madri. Io ritengo innanzitutto che la maternità non sia un diritto. La società, cioè, non deve essere obbligata a farsi carico dei figli di qualcuno. Lo stesso vale per la scuola e per il resto. I figli sono una scelta personale. Ovvio. I figli pagheranno le pensioni, ma questo è solo perché c'è il sistema pubblico coercitivo dell'INPS. Un sistema pensionistico realmente privato sarebbe realmente contributivo, ovvero tanto hai versato, tanto ti spetta. Comunque, anche se vogliamo dare un ruolo sociale alla procreazione, non può essere l'impresa a sostenere queste scelte, deve essere lo Stato. Immaginiamo due piccole aziende con 5 dipendenti ciascuna. Se in una di queste due donne vanno in maternità e devono essere sostenute e rimpiazzate, lo svantaggio competitivo con l'altra sarà enorme. Se proprio ci deve essere un sostegno alla maternità, questo deve essere totalmente statale. Faccio questo esempio. Chi produce legno sostiene con nuove piante il rimboschimento della foresta con le proprie tasche, sapendo che tra anni gli alberi cresciuti saranno la sua ricchezza. Allora, se vogliamo un INPS monopolista e pubblica, che ha un finto sistema a contribuzione, nel senso che si calcola a contribuzione ma in realtà si paga con i soldi di altri, tocca all'INPS, con il suo margine di guadagno, piantare i nuovi alberi, cioè appunto sostenere la natalità. Marcello. Sono un consulente informatico e sono in proprio dal 1996. Ogni tanto sento dei lavoratori dipendenti che si autoassolvono dall'accusa di evadere le tasse, dicendo che questo sarebbe tecnicamente impossibile. Non devo essere io a ricordare che esistono vari tipi di imposte. Se per un dipendente è difficile eludere la tassazione da lavoro dipendente, è abbastanza facile eludere l'IVA sugli acquisti quando lo stesso lavoratore dipendente va in pizzeria, va dal dentista, si fa riparare il lavandino, si fa ridipingere la casa, eccetera. Non è evasione anche quella? Luigi. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.